320. Spalla d'agnello all'ungherese. Se non è all'ungherese sarà alla spagnola o alla fiamminga, il nome poco importa, purché incontri, come credo, il gusto di chi la mangia. Tagliate la spalla a pezzi sottili e larghi tre dita, in quadro. Trinciate due cipolle novelline, oppure tre o quattro cipolline bianche. Mettetele a soffriggere con un pezzetto di burro e quando avranno preso il rosso cupo, buttate giù l'agnello e conditelo con sale e pepe. Aspettate che la carne cominci a colorire ed aggiungete un altro pezzetto di burro intriso nella farina. Mescolate e fategli prendere un bel colore, poi tiratelo a cottura con brodo versato a poco per volta. Non mandatelo in tavola asciutto, ma con una certa quantità del suo sugo.